Domani è la festa del lavoro. Evviva! Comunque la festa a chi lavora e a chi non lavora gliela stanno facendo già da un bel pezzo. Perché? Perché c'era un lavoro sgradevole da fare, non perché si potevano distribuire caramelle.